Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 573 persone, quasi tutti nomadi appartenenti a varie etnie, sono state denunciate per raccolta e trasporto illecito di ferro e rame, il cosiddetto oro rosso, sempre più soggetto a furti, un giro d'affari enorme, messo in piedi dalle persone già denunciate. Questa è una notizia di cronaca banalmente quotidiana in cui delle persone sono impossessate del rame e la collega dice nomadi. Eh no, non si può dire più nomadi. Non bisogna più dirlo perché ci è arrivato dal sindaco Marino del Comune di Roma un segnale ben preciso, tanto che ha fatto una comunicazione istituzionale per cui in tutte le documentazioni, espressioni, comunicazioni del Comune di Roma non si userà mai più la parola nomadi, si useranno i termini più propri di rom, sinti o camminanti. Secondo il sindaco Marino, proprio non è soltanto questo un atto simbolico, ma dentro le parole ci sono dei significati profondi. E il termine nomadi sarebbe un termine discriminante, e quindi il Comune di Roma si vuole mettere in una condizione di non discriminare più queste persone. Quindi non si chiameranno più nomadi. Ogni volta che in un atto pubblico il Comune di Roma si nomineranno rom, sinti o camminanti, non si potrà più dire nomadi, non saranno più nomadi. Anche se già abbiamo detto da tempo, in varie trasmissioni in cui abbiamo affrontato questo termine, che nomadi non sono più. Probabilmente è un punto avanti nel non considerarli più nomadi, quindi cominciare a considerare il problema di queste persone non più legato al fatto di spostarli, ma magari di creare loro una sistemazione. Poi mi interessa proprio il fatto linguistico, la polemica che è nata attorno al termine. Il primo a lanciare appunto il suo dardo nei confronti della decisione del sindaco Marino è stato un intellettuale che ha scritto un libro dal titolo Intellettuali del Piffero, come rompere l'incantesimo dei professionisti dell'impegno, Marsilio Editore. Costui è Luca Mastrantonio. Luca, buongiorno. Buongiorno. Luca ha scritto in prima pagina oggi su Corriere della Sera: Marino cancella i nomadi sulla carta. Vediamo se riesci a riassumere il tuo punto di vista. Ma consideri Marino un intellettuale del Piffero a questo punto? Insomma, in questo caso, guarda, il punto è che quando si pensa di intervenire sulla realtà attraverso le parole, sì, si fa un po' di demagogia. Beh, il peso hanno le parole, però hanno il peso. Le parole hanno un peso, però soprattutto se servono a indicare azioni reali e concrete, a un politico i fatti dovrebbero star più a cuore delle parole. E poi soprattutto non si abolisce, cioè le parole hanno una storia, significano qualcosa, non si aboliscono. Si deve forse cambiare le cose e le parole moriranno da sé, evidentemente. Però si va prima a dire non diciamo più questa parola, piuttosto che dire risolviamo un problema. Sì, questo sì, però la contraddizione, ci sono le contraddizioni lampanti, io brevissima sintesi. Partiamo dall'analisi proprio linguistica del termine. L'analisi linguistica, io mi attengo poi ai fondamentali, vado a consultare i dizionari, la Treccani parla di gruppi etnici, non stanziali o comunque con una tradizione di nomadismo, quindi che si dislocano, cambiano, la parola viene dal greco, cambiano pascoli, ovviamente quindi non stiamo parlando però di pastori, nell'accezione traslata il nomade può anche avere una tradizione di nomadismo. In Italia c'è per fortuna da qualche anno l'ufficio antidiscriminazioni, che è nato l'UNA dentro il Ministero, il Dipartimento per le Pari Opportunità, che sta anche mappando, ci sono stati dei flussi ovviamente, quelli che le popolazioni rom, sinti, camminanti che sono arrivati 30, 40, 50 anni fa e si possono definire stanziali ormai perché da anni sono in Italia, ma c'è anche una grandissima ondata che è arrivata dopo la caduta del comunismo dall'est, anche in anni molto più recenti e forse hanno ancora un movimento, uno spostamento che potrebbe anche non ridursi, potrebbero poi non restare in Italia. E quindi se anche sono meno, per fortuna. Come tu fai le righe, dici anche il nomadismo è un diritto. Ma se tu un domani, diritto. Luca, volessi prendere una roulotte e dire io vado, voglio essere chiamato nomade perché mi piace essere nomade. Ma dai tempi di Caino e Abele c'è questa grande differenza, capito? E al nomade andò male perché ci lasciò le penne. Perché la parola viene abolita è brutto e soprattutto non si può abolire neanche un briciolo di realtà con la parola. Bisogna cambiare le cose. Quindi sarò contentissimo di vedere risultati concreti che risolvono il problema dell'integrazione sociale di gruppi etnici con storie diverse, in movimento, anche con problemi di integrazione, e non vedo l'ora che la parola nomadi possa essere storicamente nella nostra discografia quella di un fantastico. Però ci sono parole che danno fastidio, ti faccio esempio, notevole e encomiabile istituto dove va mio figlio, c'è scritto fuori ancora per fanciulli minorati, che ogni volta ce lo porto non ci sto proprio bene, però che devo dirti, si togliesse quella lapide sarei molto contento, quindi le parole possono anche ferire le persone. Sono parole che feriscono, fanno male e che soprattutto taglieggiano, feriscono il corpo sociale. Ora, oggettivamente, nomadi non mi sembrava, forse una mia sensibilità troppo influenzata anche da letteratura italiana, insomma le nomadi, pastori erranti, noi veniamo da una società contadina, di colpo diciamo l'idea che ci si sposti, io sono con cognome meridionale, i miei genitori si sono spostati, certo non erano nomadi, erano italiani che si spostavano dal sud al nord, però considerarli immigrati anche se stavano da tanti anni in Italia non lo consideravo un insulto, certo Terroni è un'altra cosa, perché dicono che mangi solo la terra, o come Polentoni, nomadi oggettivamente era una semplificazione, diciamo un iperonimo, una parola ombrello sotto la quale ce ne sono altre più specifiche come rom, finti e camminanti, però il problema è che io temo che in realtà invece tutto ciò possa confondere ulteriormente. Allora, siamo fermati un attimo, che c'è in Italia tra rom, sì, romani, rumeni. Breaking news. Il divieto di fecondazione eterologa è incostituzionale, lo ha stabilito, quanto apprende l'ANSA, la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. Naturalmente tutti i dettagli nel corso del nostro appuntamento delle 13 con effetto giorno. Importante saperlo, naturalmente. Allora, fermiamoci un attimo. Massimo Converso, presidente Opera Nomadi, la chiamo velocemente, so che è un aereo. Voi dal 66 siete Opera Nomadi, adesso cosa fate? Cambiate nome? Assolutamente no. Sono d'accordo con Mastrandono perché il termine nomadi non è negativa. È come dire che i mongoli, che per il 75% sono ancora pastori nomadi, fossero un'accezione, invece è negativa l'accezione zingari e viene usato dispregiativamente. Ma voi vi siete sentiti questa mattina leggendo il pezzo in qualche maniera, siete diciamo l'associazione più anziana che si occupa appunto della tutela? Di gran lunga, invece Marino ha ricevuto l'associazione costituita sì che sì e no da un paio d'anni. E come si chiama quest'altra associazione? Si chiama 21 luglio, sono dei dilettanti. Ah, quindi c'è, sanno, diciamo una faida. Non hanno alcun rapporto, hanno rapporti solo con i rom stranieri. Ma scusi, Converso, mi faccia capire, dietro c'è una faida fra associazioni, l'associazione assolutamente più. Assolutamente no, loro non sono. Guardi, sono un gruppetto che usa la carta bollata per denunciare Marino, chiunque. Non ci riguarda. Ma con questa operazione cosa avrebbero ottenuto? Di depotenziarvi nel vostro nome? Propaganda, no, propaganda per se stessi. Guardi, il problema è un altro, che a Roma, ma Marino non lo sa, ed è grave che non si sia rivolta ai suoi assessori, che infatti non hanno partecipato, sì, esistono ancora migliaia di seminomadi in città, e sono i sindaci ostrai, a cui appartiene anche le famiglie Orfei, Togni, ma quelli sono i grandi circensi, i piccoli circensi. I giostrai vivono a Rho, sono 900, e poi ci sono i rom calderascia, che sono i rom venuti da Fiume e da Lissia, che sono seminomadi anch'essi. Va bene, quindi e i camminanti siciliani, cioè gli arrotini, quelli che si sembrano uccidere. Quelle donne arriva la rotina. Non le sa Marino e tantomeno lo sanno quel gruppo di dilettanti. Quindi lei dice ancora esistono delle sì, popolazioni, per quanto piccoli, no? E quindi questi non hanno più diritto di esistere adesso? Marino è proprio stato dilettantesco, mi dispiace, ma con lui non ci conosciamo perché non riceve mai nessuno. Invece il vice sindaco Nieri non doveva fare questo errore perché viene da periferie romane. Ma voi quante persone rappresentate come Opera Nomadi? Ma questo non è corretto dirlo. In Italia ci sono 200.000 fra rom, sinti e camminanti. Va bene. Ma fanno riferimento noi a voi? Noi abbiamo riferimenti in tutte le comunità, anche nei rom bulgari che il governo italiano non vuole riconoscere, chissà perché. i braccianti agricoli, che il governo non vuole riconoscere. Abbiamo rapporti diretti anche con i camminanti siciliani, i rom napoletani. Rom napoletani, anch'essi seminomadi, vivono a Roma. Converso, in sintesi, non potrà più esistere un documento ufficiale del Comune di Roma che vi nomini. Se devi dire l'opera noma, dirà l'opera e poi non mette dei puntini. Non vivo più. Non possono più dire. È solo propaganda del sindaco. Fermi un attimo. Qua mi servono lumi. Dai poteri forti. Fermo un attimo, Converso. Qua mi servono dei lumi, servono persone informate dei fatti. Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Direttore dell'Agenzia Informazione e Redattore Sociale, ha curato proprio il Redattore Sociale un volume molto importante di cui abbiamo parlato, Parlare Civile, il giornalismo e la manutenzione delle parole, Bruno Mondadori, editore. Io avevo cominciato, Stefano, questa trasmissione volendomi fermare solo sul piano prettamente linguistico. Qua mi si apre un'altra questione su cui devi darmi qualche lume. La questione cioè delle associazioni? Sì, cosa sta succedendo? Non sospettavo che l'opera nomadi avesse questa sorta di acrimonia nei confronti di una delibera che si ferma a un aspetto formale, secondo me, soltanto. Tra associazioni possono esserci ovviamente queste dinamiche. Riguardo questa delibera, anch'io condivido che probabilmente Marino poteva anche non enfatizzare di aver tolto la parola nomadi perché ha un significato discriminante, eccetera, eccetera. Poteva farlo e basta. D'altra parte, prima di lui, il governo italiano, un paio d'anni fa o tre, ha fatto il suo piano d'azione sui rom, sinti e camminanti, quello che va in Europa, e l'ha fatto e basta. Non ha usato la parola nomadi per un preciso motivo. Io, se posso dire però una cosa su questa questione nomadi, zingari, eccetera. Aspetta, Stefano, siccome è un discorso complesso. Melog. Cronache meridiane. Come la pensate? Ci siamo addentrati in una questione che va molto oltre il semplice aspetto di valutazione linguistica. Il sindaco Marino ha comunicato che nelle comunicazioni ufficiali del Comune di Roma non sarà mai più usata la parola nomadi, perché è una parola che in sé ha un significato discriminatorio. Luca Mastrantoni, su Corriere della Sera, dice: ma in effetti non ce lo vedo tanto. Il presidente l'opera nomadi, Massimo Converso, che dagli anni 60 si occupa appunto di sinti, di rom, di camminanti, dice: ma come, c'è dietro un disegno di depotenziare la nostra associazione, che ci chiamiamo Opera Nomadi, d'ora in poi nessuno potrà più nominarci. Ci sono nuove associazioni recenti che vogliono avere loro, diciamo, l'egemonia della gestione di questo difficile problema. Stefano Trasatti, che si occupa da anni di sociale, che è direttore dell'Agenzia di Informazione e Redattore Sociale, ha anche pubblicato un libro proprio sul parlare civile, sulla manutenzione delle parole, come un giornalista deve usare certe parole quando tratta argomenti sensibili, ci stava spiegando esattamente il suo punto di vista. Ti ridò la parola, Stefano. Sì, condivido che la parola nomadi non ha nulla di discriminante. Il problema è quando viene usata in modo sbagliato. Allora, a questo punto, il sindaco deve fare delle politiche. Allora, se si fanno delle politiche per i nomadi è un conto, se si fanno delle politiche per i rom è un altro conto, perché se è una popolazione nomade che oggi sta qui, domani sta là, allora questo può legittimare la politica dei campi, che per vari motivi è sbagliata. Abbiamo detto più volte, una grande truffa, sì, infatti, per far guadagnare chi gestisce i campi e non risolve il problema. Se invece si fanno politiche per una popolazione in difficoltà, povera, con tutti i suoi problemi, è un altro conto. Quindi il problema è tutto qui. Le cifre dicono che le popolazioni effettivamente nomadi tipo i giostrai, eccetera, sono una piccola minoranza di tutta questa popolazione che è di 100, 140.000, 200.000 persone, una piccola minoranza sono nomadi. Nei campi di Roma, nei campi ci sono famiglie che stanno lì da 4, 5, 6, 7 anni, se sono ancora nomadi questi, insomma. Quindi Stefano, scusami, se noi dovessimo leggere tra le righe in senso positivo ciò che ha detto, ha fatto dire il sindaco Marino, dire d'ora in poi il Comune di Roma non tratterà più come nomadi queste persone, quindi non si porrà il problema di spostarli con dei campi, ma darà loro delle case, perché sono persone da avere delle case. Questo è il vero significato del documento di Marino. Sì, c'è anche questo nelle politiche di intervento su questa popolazione, che costituisce, sappiamo tutti perché, vari problemi. Ci sono anche le case, come è stato fatto in giro per l'Italia con successo, anche a Roma probabilmente tra le strategie può esserci anche questa dell'abitazione, come quella del lavoro, come quella delle scuole. Però insomma non è una questione di solo linguistica. Poi come dice Mastrantonio, le parole muoiono e vengono sostituite, questo è un altro processo naturale. Poi è vero, Stefano, che nomade tutto sommato attenuava la parola più dispregiativa, che zingaro. Dire gli zingari è una cosa, dire i nomadi, già arrestata una giovane nomade piuttosto che una zingarella, mi sembra un po' meno pesante, proprio per le parole che devono essere, avere una loro manutenzione periodica. Certo, zingari è una parola che la maggior parte dei rom odia e considera negativa, ma anche qui appunto, se si fanno le politiche per gli zingari un conto, se si fanno per i rom un altro, se si fanno, passando a un altro ambito, politiche per i clandestini è un conto, se invece queste persone le chiamiamo rifugiati, richiedenti asilo, profughi eccetera, è un altro conto, sono due cose molto diverse. Poi c'è, a proposito di associazioni, c'è Opera Nomadi, ma c'è anche un'altra gloriosa associazione a Torino che si chiama Associazione Italiana Zingari Oggi, sono rimasti così. C'è un'associazione sulla disabilità che si chiama ANFAS, che sì, originariamente, 100 anni fa, è nata come associazione famiglie di fanciulli adulti e subnormali, è un termine che oggi nessuno si sognerebbe più di dire. Loro hanno lasciato quella sigla, ma hanno cambiato il modo in cui si scioglie, i disabili intellettivi e relazionali. C'è un'evoluzione delle parole, l'importante, ecco, è non essere molto né fondamentalisti né non curarsene affatto. Allora, Massimo Converso, ricordo, presidente Opera Nomadi, alla luce di quello che abbiamo detto, ha in parte attenuato il suo giudizio oppure rimane ancora dell'idea che sia un'azione mirata, una sorta di siluro lanciato verso l'Opera Nomadi? Contro di noi, è proprio stata un'azione dilettantesca, ha capito? Il sindaco non sa che sul territorio di Roma ci sono ancora dei seminoma. Guardi, la richiesta più forte che gli assessori di Marino stanno affrontando è quella del mestiere tipico dei nomadi, il riconoscimento di commercianti ambulanti, ha capito? Che è tipico da 2000 anni. Questo Marino non lo sa, ha capito? È stata un'operazione imposta dai poteri forti che si trovano dietro al gruppetto che è stato ricevuto. Ma qual è l'interesse di aprire altri attivi? Propaganda. Siccome è in difficoltà Marino, ma noi lo stiamo aiutando, la Giunta. Abbiamo rapporti quotidiani. Domani saremo i commercianti rom, nomadi, seminomadi, saranno ricevuti in Campidoglio, ma su obiettivi concreti, non su queste sciocchezze. Ma come si presenteranno? Non posso più dire siamo commercianti nomadi, siamo commercianti non stanziali, come dicono, non lo so. Ma perché loro girano nella città e anche fuori città, mi sto recando a Cagliari per un mercato che girerà per tutta la provincia di Cagliari. È il loro mestiere tradizionale più antico. Ma sono quelli che chiamiamo gli ambulanti, quindi, che più o meno è la stessa cosa. Sì, no, ma fa parte dell'economia del nomadismo, ha capito? Ma Marino non lo sa, non si rende. Vabbè, domani glielo spiegherete, se andate lì in qualche maniera cercherete di colmare questa lacuna, che è giusto che non può avere lo scibile. Torniamo un attimo con chi abbiamo iniziato, Luca Mastrantonio. Vedi, però dietro le parole in realtà ci sono significati profondi. Esistono i nomadi, è molto più complesso di quello che immaginavamo soltanto 20 minuti fa. Vedi, esatto. I nomadi esistono, domani saranno ricevuti da Marino, non possono essere chiamati nomadi, non sono discriminati a essere chiamati nomadi perché loro fanno un lavoro comunque che implica spostamento, come diceva Trasatti. Marino deve dire allora in maniera chiara: benissimo, non li tratto più da nomadi, comincerò a dare loro le case, poi vediamo come se la mette con le persone, dicono date le case agli zingari, non le date agli italiani, e cose del genere. Vedi com'è più complessa la realtà dietro le parole. E rivendica però anche un diritto di venir chiamata la realtà, se anche c'è, tra l'altro sui dati, anche Trasatti che è stato puntualissimo anche sui dati, quanti sono rom, sinti e camminanti, 120, 170 mila, se non sappiamo il numero, se non sappiamo quanti sono, sappiamo già che cosa non sono, sappiamo che non sono nomadi, qui non c'è da fare polemiche virulente, anche perché abbiamo anche scoperto appunto conflitti, acrimonie, come dicevi prima, ma quello che è, io temo purtroppo ormai invalso in molti politici, è quest'opera di cosmesi, cioè la lingua come cosmesi dei problemi. Noi, se ci sono le buche, mettiamo sopra un cartone con scritto questa non è una buca, pensiamo che non sia una buca, poi ci cadi dentro e dici come la chiamiamo. Questa ormai da anni è purtroppo una pratica appunto di imbellettare i problemi con, anche qui non si usa più la parola nomadi, ha ragione Trasanti, dice ma non usatela, oppure entrate voi nel merito e soprattutto per esempio puntate a politiche di integrazione per quanto riguarda le scuole. Soprattutto non occorre dire, suonando la tromba, da oggi non usiamo più la parola nomadi, perché mentre lo dici lo affermi, in realtà la stai usando. Grazie a tutti gli ospiti, a domani.